abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Amsic, corto per Mertens, controllo, apertura, stupenda, Kai e gol! Ha parato Ederson! Incredibile! Manda in velocità Sané, 4 contro 2, Sané si fa tutto il campo, non riescono a fermarlo, nemmeno con un fallo c'è Isai, poi Agüero che punta la porta davanti a Reina e lo fulmina! Record di gol nella storia del Manchester City, 178 per il Kun Agüero, 3-2. Una buona impressione, tutto sommato. Abbiamo trovato una squadra forte, l'abbiamo messa in grandissima difficoltà e per riorganizzarsi dall'episodio Gulam abbiamo perso un po' l'inerzia della partita, abbiamo preso l'1-1. Siamo stati in partita, dispiace che abbiamo preso il gol del 3-2 su una ripartenza, su una palla gol nostra. Quindi vuol dire che la partita era in grande equilibrio e stare in grande equilibrio contro questi avversari è un buon segnale. So perfettamente come ho detto l'andata, contro chi la squadra, qui la squadra abbiamo vinto. È una squadra che mi innamora vederla giocare, oggi mi ha fatto soffrire il primo tempo, primo 20-20 minuti. Mi auguro che possano stare in salute i suoi giocatori e competere, perché il calcio ha bisogno di squadre come Napoli. Maledetto minuto 67 di Napoli-Manchester City, abbiamo sentito, occasione per... Callejon dopo un meraviglioso assist di Mertens, calcio d'angolo sul seguente, sul ribaltamento di fronte, il Napoli che prende un contropiede, dal possibile 3-2 si va sul 2-3. Partita meravigliosa, ciao Pierluigi Pardo. Ciao, sì, meravigliosa. Peccato che ci siano i tabelloni nelle classifiche. No, dicevo, peccato che nel calcio esistano i tabelloni luminosi e le classifiche. Il tabellone che diceva 2-4, la classifica che dice che il Napoli è praticamente fuori, salvo rocambolesche allora, guarda, combinazioni. Io posso dirti, vorrei, adesso so che sono l'inguaribile ottimista, indubbiamente la classifica è pessima e non c'è molto da girarci attorno. Adesso il Napoli ha perso 3 partite su 4 in questa Champions, quindi se vuoi cinicamente si merita pure di avere una brutta classifica, perché comunque ha perso 3 partite su 4. Però secondo me non è finita. Bisogna crederci, bisogna vincere con lo Shakhtar e secondo me è possibile, è anche probabile. Uh-huh. E poi io non credo, guarda, spesso in Europa, a parte rarissimi casi, un famoso strano caso del Lione qualche anno fa, sì, in trasferta in un secondo tempo in Croazia, in generale in Champions League, insomma, i brutti pensieri, i cattivi pensieri non trovano grande spazio. È chiaro che Manchester City, già qualificato col primo posto nel girone, che va in Ucraina l'ultima giornata, non sarà motivatissimo, questo sì, però io non credo che andrà lì per regalargli la partita. E Napoli deve crederci, deve sperare. Certo, indubbiamente è una brutta situazione. Una brutta situazione, fra l'altro, anche dal punto di vista del campionato, secondo me, l'Europa League non aiuta. Perché insomma, spero che Napoli almeno l'Europa League lo difenda, ma insomma io vorrei aspettiamo Napoli-Shakhtar. Serata è stata ovviamente catastrofica, anche perché l'infortunio di Gulam è pesantissimo. Bravo, appunto, è come, la sai, sfiga che come, come direbbe un mio amico che si chiama Pierluigi Pardo, non so se lo conosci. Simpatico, sì, un ragazzo simpatico, sveglio. Narratore, romanziere, sì, eccetera. Come direbbe il mio amico Pardo, il dato politico di questa serata, più del risultato, del tabellone luminoso, di una classifica pessima, è l'infortunio di Gulam, crociato per Gulam. Adesso non vorremmo, questo discorso poi lo riprendiamo anche con gli ascoltatori 800 24 00 24, e vorrei anche sentire ascoltatori di Napoli, ma non per sentire dei lamenti, non vorrei che questo diventasse un una sorta di alibi per dire e adesso che facciamo? E adesso è finito qui? Perché molti tifosi del Napoli, compreso il nostro amico Boris Sollazzo, dicono no, ma dicono questo. Non credo, sarebbe un peccato. Non credo, sarebbe un peccato sicuramente, ma non mi sembra questa l'ipotesi, anche perché Napoli rimane molto competitivo. Certo, guarda, pensavo questa cosa ieri sera, paradossalmente Ghoulam è uno di quelli, non è fra i primi 3-4 giocatori del Napoli, no. Però è uno di quelli difficilmente sostituibili, perché il Napoli in quel ruolo lì ha un'incognita, che Mario Rui ha un giocatore, si è visto ieri, di affidabilità, ma insomma di esperienza, ma anche ovviamente è un po' avanti con l'età, come Maggio. E quindi sì, non c'è molto. Quindi è un infortunio che pesa più di quello che è il valore di Ghoulam, che è già buono, perché Ghoulam è un buon giocatore, assolutamente. Però pesa tanto. Deve essere bravo Sarri. L'anno scorso, in una situazione di emergenza, si inventò Mertens. Ora è chiaro che non, su quella fascia non puoi inventarti granché, magari Zielinski, magari qualcos'altro. Però deve essere bravo Sarri a inventarsi qualche cosa. Ripeto, il dato politico della settimana comunque sono due italiane che sono a un passo dalla qualificazione. A un passo dalla qualificazione e l'altra che quasi fuori. A un passo ed è abbastanza sorprendente, perché questo va detto. Io, sai, mi piace essere intellettualmente onesto, così come indubbiamente il Napoli ha fatto in campionato delle cose straordinarie fino a questo momento ed è una grande sorpresa, diciamo una grande conferma in positivo, il rendimento in Champions è deludente. Poi, secondo me, la sfiga è stata un po' nel calendario. Ha sbagliato e no, quella partita iniziale. Sì, e soprattutto che hai beccato una squadra, il Manchester City, che in questo momento è qualcosa di diverso, secondo me, da bravo, tutte le altre. Real ha preso 3 fischi, poi parliamo anche di questo. Detto questo, mi ricordo quando, insomma, stava fatto. Cioè, lo Shakhtar, per dirti, è la squadra di prima fascia, era forse la squadra di prima fascia più debole di tutte. Chiaro. Quindi, insomma, francamente non era stato sfortunato il Napoli a livello di sorteggio, e quindi insomma ci sono anche delle colpe, ma soprattutto quella prima partita. Detto questo, ripeto, non è finita, vediamo Napoli-Shakhtar. Se Napoli vince con lo Shakhtar e scavalca, diciamo, nello scontro diretto lo Shakhtar, quindi ribalta il 2-1 dell'andata, poi perché no? Io sono pessimista, sai. Sentiamo uno che le canta chiare di solito a noi, perché è un nostro amico, ma soprattutto il telespettatore di Sky. Massimo Mauro, buongiorno. Ciao, come stai? Buongiorno. Bene, un po' di mal di schiena, ma bene. Troppo golf. No, magari. No, sì, questo. Allora è quell'altra cosa lì, ho capito. Va bene. Okay. Scemo. Andiamo al calcio. Scemo, perdonalo. È diventato golfista anche lui. Sì, quindi... vabbè, in maniera ignobile. Senti, ma sei d'accordo con Pardo, che è moderatamente ottimista sul Napoli? Io sono un po' pessimista, ti dico la verità. Molto moderatamente. Però voglio giocare. Vabbè, prego Massimo. Vabbè, no, guarda, vedere la partita di Mertens mi fa essere pessimista. Perché ti dico questo? Perché voleva fare molto di più, voleva essere più protagonista, voleva impegnarsi, però non stava bene. E era chiaro che non c'era un sostituto all'altezza per quella partita. E questo per dire che il Napoli è stato straordinario per mezz'ora, ma poi chi ha in panchina gente che costa 70 milioni di euro, 50 milioni di euro, titolare nel Brasile, cioè, è chiaro che ha chance in più. Io sull'acqua alta non sono d'accordo, cioè? Perché se tu, nel senso che il Manchester City non gioca bene la prima mezz'ora, se gioca bene tutta la partita, proprio perché ha una rosa a disposizione straordinaria, e quindi nel secondo tempo ha messo dentro due campioni che hanno gestito la palla in maniera pazzesca, cioè Silva in panchina, no, si direbbe a Guardiola che ha sbagliato tutto a tenere Silva in panchina. Invece il Manchester City si può permettere anche quello, e l'ultima mezz'ora ha stravinto la partita. Sì. E quindi non so cosa capiterà andando avanti al Napoli, perché mi dispiacerebbe che per non avere i sostituti all'altezza dovesse rischiare di avere difficoltà sia in campionato sia in tempo. Sì, Massimo, il Napoli comunque pagherà la sconfitta in Ucraina più del doppio confronto, certo, con il City, che era molto difficile. Però partire con l'handicap di una sconfitta in Ucraina ha compromesso tutto quanto. Poi c'è quell'altro caso che tu citavi e che a me sta ancora più a cuore, parlavo prima di dato politico della serata, ancora più a cuore rispetto all'esito della partita di ieri sera. Stai con noi Massimo, sentiamo un secondo il traffico e torniamo. Subito dopo l'intervallo la lotta continua. Tutti convocati. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta. Tutti convocati. Ma perché i famigerati social network hanno cominciato il loro perverso gioco, chi è, non è tifoso del Napoli, per Luigi parte qui con me, Massimo Mauro al telefono, ha cominciato a scrivere l'alibi è già pronto, Gulam infortunato e adesso comincino pure i piagnistei, cose di questo tipo. Non vorrei che l'infortunio a Gulam, ne parlavo prima con Pierluigi, Massimo, diventasse pesante anche per il campionato, cioè creasse una situazione un po' perversa anche sul campionato del Napoli. No, guarda, io poi ho riflettuto durante il traffico che è insopportabile, ma vabbè. Partito di Cruciani. Dillo a Cruciani. No, essere d'accordo con Cruciani mi inquieta. No, perché non vorrei essere offensivo nei confronti dei ragazzi che sono in panchina del Napoli, perché bisogna vederli all'opera. È Sarri che ce li fa vedere poco. E quindi non lo so, ecco, adesso Gulam sta facendo un campionato straordinario, non so quanto tempo mancherà, però voglio dire, se fai questo discorso alla Juventus, no? C'è Alessandro, c'è Asamoah, se fai Manchester City non ne parliamo, però speriamo di no, che vi devo dire? Io tifo per le squadre italiane in Champions e non sono tifoso di nessuna squadra in campionato. Uh-huh. L'unica squadra per cui tifo è il Catanzaro, che purtroppo è in Lega Pro. L'organico corticino e il Napoli ce l'ha. Cioè, questo non è non essere tifosi del Napoli. No, è un dato di fatto. E soprattutto ha due infortuni oggi pesanti, sì, poi ne parleremo dopo le 14:30. Sì, sì, no, ma io sono d'accordo. È chiaro che quando vedi la partita contro il Manchester City, lì forse c'è proprio l'esaltazione, cioè hai di fronte la migliore panchina al mondo. Però una via di mezzo c'è. Ma infatti io credo che. Però Mertens si trascinava, poverino, e ce l'ha messa tutta per cercare di essere. Io non sono tenero con Mertens, però ieri ho capito proprio che. A sta gamba la trascinava. Sì, ma ragazzi, Mertens non può star fuori, Massimo. Deve stare in campo per 90 minuti. Ma deve stare in campo per 90 minuti, non c'è niente da fare. Ho capito, ma non in quelle condizioni. Ragazzi, perché voglio dire, di Maradona ce n'era uno solo, e poi sto parlando sempre di Maradona quando è il Napoli, no? Però di Diego ce n'era uno solo che può stare in campo con una gamba sola. Mertens, se non è a posto fisicamente, non scatta, non dribbla. Insomma, non ha quelle intuizioni che partono molto dalla condizione fisica, dalla rapidità con cui sta in aria. Invece ieri, ragazzi, meno male che Insigne ha fatto una grande partita, perché se no davanti, tra lui e Callejon, non è che hanno giocato per essere una partita di quel livello. Questo voglio dire, perché poi di questo si ragiona, che a quel livello bisogna essere giocatori diversi. Sì. Sì. Perché non è affrontare le tre partite di campionato che tu ti puoi nascondere, a quello che vai là non ti nascondi. Assolutamente. No, io credo che insomma la poca profondità della rosa del Napoli è un dato. A centrocampo, secondo me, le cose vanno meglio. Dietro, dal punto di vista dei centrali, le cose vanno meglio. Si sono fatti male due giocatori. Uno non era tecnicamente un titolare, perché Milik non era tecnicamente un titolare, però ha fatto sì che ovviamente abbia tutto questo, abbia comporti che quegli altri non si possono riposare mai e alla lunga, ma questo l'abbiamo detto, guarda, in quel momento in cui si è fatto male a Ferrara è stato il primo pensiero, e Gulam è un giocatore difficilmente sostituibile, perché comunque insomma lì dietro non abbia, appunto come dice Massimo, non è che abbiamo visto molto dei panchinari del Napoli, un po' anche per la mentalità di Sarri, che se mi vai a fare un ragionamento, non è una critica, è un ragionamento post partita, quindi lascia il tempo che trova, però io credo che sia interessante dire anche che il Napoli non riesce a capire il momento. Per esempio, Koulibaly ha fatto 2-3 tentativi di pressare alto, però prendendo la palla, che non l'ha presa perché Agüero ha fatto due finte straordinarie, e hanno preso due contropiedi. No. Allora, io dico, quello a quel punto, se tu sai di non avere il 100% della squadra, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista degli uomini, ti sta andando bene, magari è il momento di essere un po' più umili e dire, ma sto dietro, vediamo se mi superano loro, vediamo se sono così bravi da dribblarmi, certo, e farmi gol. No? Sì, sì. Non, non è il ricordo del Napoli, Massimo. Comunque, lo so, però ragazzi, insomma, non è, io sono innamorato del guardiolismo, però quando uno non ce la fa, deve fare con quello che ha. Sì, è chiaro. Ragazzi, volevo fare, prima di salutare Massimo Amaro, un altro ragionamento che non riguarda il Napoli ma la Juventus. Altro caso della settimana è quello di Dybala, perché ci sono, vabbè, Dybala l'altra sera ha giocato una pessima partita come la Juventus tutta. È uscito incazzato con Allegri, e non è la prima volta, già l'hai commentato tu, sì, Pierluigi, a Udine, ma già era successo l'anno scorso, ti do la mano, non ti do la mano, eccetera eccetera. Sta attraversando un brutto momento, i tifosi della Juventus non lo guardano con occhi teneri. È un problema questo o è qualcosa di gestibile, tipo il caso di Higuain, deve ritrovare la forma, la ritrova e comincia a sbatterla dentro con continuità? Massimo? Sì, guarda, ha caratteristiche per fare il leader, non per fare il leader fuori dal campo. Il leader tecnico, tu dici? Sì, in campo è un leader, perché voglio dire, quando gioca bene fa la differenza. È chiaro che deve trovare continuità, forse anche un gioco dove magari la continuità non sarà mai, no, al 100%, però come fai a discutere di Dybala? Fuori dal campo mi sembra un po' un ragazzo in difficoltà, e di solito questi due giocatori la Juve li vende. È chiaro che se Dybala fa un anno straordinario, la Juve secondo me ci pensa a venderlo, perché voglio dire, prende tanti soldi e va a prendere un altro, no? Perché la Juve ha bisogno di leader per il futuro, perché quando smette Buffon, sono vecchietti difensori, Marchisio sta avendo un po' di difficoltà, deve trovare dei leader, e quindi sì, magari lo può anche vendere. Devo dire la verità, fa un po' effetto, adesso qui sfodano un altro classico del repertorio sul fatto che il calcio è liquido, perché fa veramente effetto. Pensare che Dybala, che è il miglior realizzatore della Juve, il miglior giocatore ad oggi della stagione della Juve, credo senza se, senza ma, nel senso che è l'uomo che ha trascinato per i primi due mesi della stagione la Juve, sia improvvisamente diventato argomento di discussione. Sono d'accordo sul fatto che non sia un leader in senso caratteriale, ma sia un leader dal punto di vista tecnico, ancora giovane, magari crescerà anche da questo punto di vista. Io penso che la Juve sia un work in progress, credo che la Juve in generale sia un work in progress, e penso che non ci sia nulla di preoccupante. L'unica cosa un po' preoccupante per la Juve, come dicevo anche ieri, è che quest'anno mi sembra che il livello delle avversarie sia cresciuto. Probabilmente dipende anche dal fatto che, mentre intanto cadono telefoni, probabilmente dipende anche dal fatto che il livello delle avversarie è calato, cioè il discorso che facciamo ogni giorno su questa forchetta enorme che si è aperta fra le grandi e le piccole del nostro calcio. Però indubbiamente il passo di Napoli, Inter, Lazio, della stessa Roma, è un passo che quest'anno può mettere qualche problema in più. Ma io non vedo nulla di patologico, no, o di fuori controllo nella stagione della Juve. Se andiamo a vedere i numeri in campionato e anche in Champions, l'altro giorno ha giocato male e ha passato il turno. Ma sì, questa è la verità. Massimo, sì, che dici? Vedi qualcosa di pericoloso? No. Io no, sinceramente, leggi le classifiche. Anche perché voglio dire, la cosa strana è che ha questi atteggiamenti nei confronti di Allegri. Appunto. Cioè, lo ha gestito alla grande, c'è stata qualche sostituzione di troppo qualche anno fa, però insomma mi sembra che, no, anche Higuain accetta tutto come si deve. Io questo mi pare un po' strano. Poi dal punto di vista tecnico, io penso che non diventerà mai un fuori classe, è un grandissimo giocatore che può fare la differenza in campionato, a livello internazionale va un po' in difficoltà perché i ritmi sono diversi. Ma Dybala o Higuain? Dybala, sì. No, Higuain secondo me è migliore di tutti. Passategli la palla e lui la butta dentro. Il problema è fargli arrivare la palla. Esatto. Grazie Max. Ciao Massimo Mauro. Pasquale Napoli, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Un abbraccio. Allora, dimmi. Io mi tengo buona l'affermazione di Gianluigi Pardo, che ci crede ancora. Pierluigi, all'anagrafe, ma non ti preoccupare, è uguale. È un grande classico. Gianluigi Pardo. Ci credo nel modo più assoluto. Abbiamo fatto una grandissima prestazione. Mi tengo i complimenti di Guardiola e non certamente le critiche di Mauro, che sono assolutamente infondate, secondo me, sono di parte. In che senso, scusa? Pur essendo un ragazzo di Catanzaro che ha giocato anche nel Napoli, ma il Juventino, e pur di buttare, diciamo, un'ombra sul Napoli, non ci no, ombra, sono secondo me, premesso che poi ognuno la vede come vuole, il calcio ha fatto anche dei episodi, il Napoli prende il gol del 3-2 su una palla gol per il Napoli con Caglecon, con quella parata, quindi poi il calcio soprattutto in queste partite qui è feroce, è veramente feroce e fa anche incazzare delle volte in maniera esagerata. Qualche ingenuità l'ho vista anch'io, onestamente, no? Nel senso che quello che dice Massimo Mauro è secondo me il fatto che quando tu hai un avversario talmente forte devi avere un atteggiamento di umiltà e di concentrazione che il Napoli ieri non ha avuto nei 90 minuti. Cioè l'ha avuto sicuramente la prima mezz'ora, che è stata abbagliante per bellezza e anche per efficacia, perché comunque il Napoli è passato in vantaggio, non ce l'ha avuta nei 90 minuti. Non puoi prendere la partita della Roma col Chelsea, si dirà che il Chelsea non è il City in questo momento, adesso si arrabbieranno a Roma, però voglio dire, il Chelsea non è il City in questo momento, però la partita della Roma dell'altro giorno è stata proprio un manifesto di efficacia, di attenzione, eccetera. Magari col City era un po' più difficile farla, però il Napoli onestamente nei 90 minuti non l'ha fatta. Credo che questa fosse il senso, poi non è che devo fare l'interpretazione. No, ma in ogni caso quel contropiede preso al 67. Sì, fra l'altro quello nasce da un errore di Hamsik. Questa è cronaca, però, non è volontà di critica. Però sì, il lato... Io sono d'accordo con l'ascoltatore, ma Napoli, che è d'accordo con me. Quindi è vero che non è capace di imbruttire certe partite. Beh, in campionato l'ha fatto quest'anno. Sì. L'ha fatto quest'anno. Cioè in campionato abbiamo sottolineato come una qualità, e lo è secondo me, il fatto che il Napoli abbia cominciato a vincere le partite cosiddette sporche, le partite dove non tutto ti riesce bene da subito, a non avere lo stesso tipo di passo nei 90 minuti, quindi una gestione un pochino più attenta delle situazioni. In Champions è più dura. In Champions è più dura, soprattutto se l'avversario è Manchester City. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo dire questo. Allora, Napoli, grande squadra in Italia, tutto quanto, però poi in Europa se incontri squadre come il City è normale che la paghi. Mi dispiacerebbe se il Napoli non passasse il turno, perché poi magari rischia di andare in Europa League e poi lì le cose, quando il campionato prosegue, rischiano a ricomplicarsi la faccenda, ecco, tutto lì. Sono d'accordo, guarda, per me l'Europa League, che è una competizione, come sai, che io amo, perché secondo me merita grande rispetto, è la vecchia Coppa UEFA e ci si può divertire moltissimo, però oggettivamente, soprattutto in quel periodo lì della stagione, ecco, mentre in questa fase sicuramente ti dà meno problemi, perché è vero che giochi il giovedì, però è altrettanto vero che il livello degli avversari è basso, cioè, pensa al Milan comunque, che sta avendo così tanti problemi in campionato, sta vivendo invece in Europa League un girone piuttosto tranquillo, però a febbraio l'Europa League diventa complicatissima, quattro settimane invece che due, nelle cinque settimane appunto fra febbraio e marzo, e quindi può pesare. Detto questo, insomma, io voglio ancora ragionare col Napoli che è in Champions. Sì, non dipende dal Napoli, questo è evidente. Poi è chiaro che oggi con il City probabilmente perderebbe qualunque squadra d'Europa. Il Real Madrid ieri ha preso tre palle dal Tottenham, il Barcellona è stato fermato dall'Olympiacos, possiamo andare avanti, si è qualificato il Bayern, continua a vincere lo United, però credo che in questo momento il City in Europa sia il meglio che c'è. Francesco, buongiorno. Buongiorno signor Gente, signor Pardo, un piacere parlare con ciao. Voi, la vita che vi ascolto, e siete grandi, poco da dire. Ah, grazie. E grossi. Sei giuggioloni come io. Grossi poco, ma va bene, grossi va bene. Va bene, ok. Grossi è sempre buono. Dici. Hai capito, no? Dici. No, sono un tifoso del Napoli, cosa dire, con tutta la passione ho 50 anni che nutro da che ero ragazzino. L'amaro è che questo calcio è sempre di più un giusto, è sempre più un qualcosa di fatturato, qualche attore qualche volta ha usato dire, ed è stato anche denigrato, ed è così, perché il Napoli grandissima squadra, ma grandissimi 11 contati, dove se tu non hai i danè, come si dice a Milano, e i soldi, come si dice a Napoli, non vai da nessuna parte. Questo da tifoso è deprimente tutto questo. Sì, non tutti, tutti hanno i soldi del City. No, e anche le idee. Guarda, ieri Enrico Sacchi nel post partita diceva una cosa molto giusta, secondo me, cioè che è facile, tra virgolette, riuscire a fermare, cioè che le idee contano più dei soldi, ma quando hai un avversario che ha soldi e idee diventa molto complicato. Ed è il Manchester City in questo momento. Poi attenzione, magari a febbraio questa squadra non sarà, cioè non, oggi secondo me, se ci fosse oggi la finale di Champions League, sarebbe la favorita, cioè per quel, se fosse un campionato oggi sarebbe la favorita, assieme forse al Paris Saint-Germain. Però attenzione, perché poi da febbraio in poi le cose cambiano, esatto. Però in questo momento il Manchester City è la squadra che rappresenta l'equilibrio fra le idee di Guardiola, finalmente capite, finalmente digerite, e ovviamente i soldi, la qualità, perché pazzesca. La panchina ieri cambia quando entra Bernardo Silva, ma di che stiamo parlando? Di che stiamo a parlare? A proposito di soldi, sentiamo la borsa, torniamo. Mancherebbero 2 minuti, però mi hanno dato 3 minuti di proroga, quindi posso chiudere alle 23:20, manca 23:24, quindi vai con calma. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Birra Antoniana. In ogni birra una storia. Scoprila su birraantoniana.it. Tutti convocati. Tutti convocati, programma calcare. Ma proprio tutti, beh, tutti, sì, siamo tutti, al top. Tutti. Siamo al top. Sai che abbiamo in linea? Abbiamo uno storico medico sportivo. Sì, italiano. Abbiamo teoricamente il mio ortopedico, anche se non ci vado mai. Quindi lui secondo me si vergognerà a dirlo, perché in realtà io devo fare delle cose con lui da anni, tipo cambiare le gambe direttamente. Facciamo prima. Benvenuto a Piero Volpi, come Piero va? Volpi, buongiorno. Bene, bene, buon pomeriggio a voi. Stiamo parlando di uno dei guru dell'ortopedia italiana. Possiamo dirlo? Beh sì, insomma, vuol dire per esperienza, più che altro per esperienza, perché insomma l'età avanza, tutto qua. Beh, tornato a lavorare con l'Inter, responsabile, esatto, del settore medico dell'Inter. Però io volevo fare con Piero Volpi un discorso non in nerazzurro ma generale, perché sì, questi crociati che saltano come elastici, posso fare un elenco, Vai. La Roma è un disastro, Kasdrop 2 volte, Florenzi, Pellegrini, Palmieri, Tuminello, Nura che è un primavera, Mario Rui l'anno scorso, Rudiger lo scorso anno, Strootman, vabbè, lasciamo stare, lo sappiamo tutti. Altri crociati rotti, Milik 2 volte, ieri Goulam, Conti, Perin l'anno scorso, poi posso andare al 2016. Però insomma, mi sembra bizzarro, quantomeno dal punto di vista della statistica, vedere tutti questi crociati che saltano. Ecco, sì, approfittando dell'età, che come l'ha detto lui, insomma, dell'esperienza, è cambiato rispetto a qualche anno fa, Piero, tutto questo, cioè ce ne sono di più? Sì, diciamo che le aspettative oggi del calcio moderno su questo tipo di lesioni è di una lesione all'anno per squadra. Quindi il calcio è uno sport traumatico, quindi bisogna aspettarsi che in ogni anno ci sia, purtroppo, dico purtroppo perché sarebbe bello che non si verificasse, una lesione di crociato per squadra per anno. Parlo del professionismo. E da anni si discute come ridurre queste incidenze, sono studiati i terreni, le scarpe, le metodologie di allenamento, però si è visto che oggi i due fattori più importanti di questa incidenza, che devo dire è in aumento, ma però è così, è anche costante da un po' di anni, perché anche negli anni scorsi avevamo frequenze, comunque incidenze di questo tipo, sono in questi ultimi anni la fisicità dei giocatori, devo dire che è molto molto importante, e il rapporto gare-allenamenti. Cioè, oggi si gioca molto e ci si allena di meno. Ecco, e qui rispondo alla domanda che mi hai fatto prima rispetto a una volta. Una volta, diciamoci la verità, il numero di partite la Coppa dei Campioni si giocava sull'andata e ritorno e non sui gironi. Certo. Io ho giocato in Serie A con un campionato a 16 squadre e non a 20, che comunque sono 8 partite di meno, cioè voglio dire, sono diverse partite di meno. Le nazionali chiedono i giocatori e quindi si cambia metodologia di allenamento. Pensate che squadre come il Napoli, come la nostra, come l'Inter, le maggiori squadre italiane, ogni sosta, adesso ne abbiamo una dopo domenica, settimana prossima, vanno via 13, 14, 15 giocatori. Capite che si va in un allenamento diverso, in partite diverse, si continua a giocare, in campionati in continenti diversi, cambia l'alimentazione, cambia tutto. Quindi perdi quello che è il controllo della prevenzione, il controllo di tutti quelli che sono i fattori che puoi cercare di contenere. Ieri, quindi vedete che il problema è molto più ampio di quello che si possa pensare. Ieri Sarri nel post partita ha detto che il Napoli gioca sempre, ha sempre qualche ora di riposo in meno rispetto alla diretta avversaria del Manchester City, al di là del fatto che lì... Ha detto una verità, ha detto adesso non senza arrivare al, forse lui la voleva specifico dire più in giustificazione di un risultato magari che poteva essere, oppure di una prestazione che è stata brillantissima per un certo periodo. Professore, faccio questa domanda: in un infortunio come quello di Gulandi ieri, al di là di una cosa che non è molto scientifica e si chiama probabilmente sfiga, no? Si chiama anche casualità di un tipo di gesto che viene fatto appunto traumatico, il fatto di aver riposato 24 ore in meno può contare qualcosa? Conta qualcosa? Guardate, assolutamente sì, arrivavo a questo, ve l'ho detto, forse il fattore più importante è proprio questo, cioè il fatto che oggi giocando per queste squadre domenica, mercoledì o sabato e martedì, oppure addirittura giovedì come gioca stasera le squadre in Europa League e poi domenica, è chiaro che tu hai tempi molto molto stretti, tu mandi in campo giocatori che sono, diciamo, fisicamente sono pronti per giocare la partita, però biologicamente non conosci quanto questa fatica possa incidere, e lì basta veramente poco, perché oggi una velocità di cambio di direzione, un inserimento, un taglio di direzione ti può lasciare ovviamente il contatto con il terreno, il tacchetto, il ginocchio, la rotazionalità va fuori controllo e quindi praticamente sì, ti rompi il crociato, e quindi vedete che questo è per questo che io ho proposto già da 2 anni, e so che la federazione in parte sui dilettanti l'ha fatto, l'unica possibilità, non potendosi ridurre ovviamente i calendari, perché tutti vogliono giocare dall'Europa ai aree nazionali, ai campionati nazionali, l'unica possibilità è quella di aumentare le sostituzioni. Noi dobbiamo aumentare le sostituzioni, cioè far sì che i giocatori possano giocare di più tutti e un po' meno quelli che giocano sempre, fare un turnover vero, sì, perché sennò alla fine con 3 sostituzioni l'allenatore è chiaro che fa giocare sempre gli stessi, cioè quelli che gli danno più affidamento, certo, in tante partite, perché poi si parla di turnover, ma poi vedete che gioca sempre la squadra, i titolarissimi, certo, sì. Però prof, c'è una cosa che mi manda ai pazzi. Allora, per il calcio facciamo questo discorso, come la mettiamo con gli altri sport? A me viene in mente il solito basket. Allora, si gioca, ad esempio, l'Armagna settimana scorsa ha giocato a Madrid il martedì, in casa con il Barcellona il giovedì, in campionato la domenica, e questa settimana va a giocare di nuovo in trasferta. L'NBA si attraversa il continente per giocare magari back to back, cioè una sera sì e l'altra pure. Come la mettiamo con gli altri sport? Ci sono infortuni anche lì, non così evidenti. Sì, però il basket è proprio un esempio in cui c'è una rotazionalità. Cioè se l'allenatore vede che ci sono giocatori che sono un po' stanchi, può rotarli in qualsiasi momento, perché le regole di quello sport consentono la rotazionalità. Cioè oggi è questo che è importante. Cioè oggi noi purtroppo, non potendo toccare, almeno secondo me, il problema dei calendari, e qui guardate che c'è un indice ben preciso, cioè che è sotto i 3 e 6 allenamenti per partita, sotto questo vai a rischio, cioè questi sono dati statistici che abbiamo studiato, hanno studiato in tutto il mondo, cioè quando tu fai meno di 3 allenamenti fra una partita e l'altra, voi pensate a una squadra che gioca nelle coppe, che fa ovviamente la partita il sabato, il defaticante la domenica, mezzo allenamento il lunedì e poi mi gioca il martedì, non esistono neanche 2 allenamenti, non 3, fra una partita e l'altra, e questo abbatte enormemente il rischio, ma noi parliamo di crociati, ma abbiamo un'incidenza anche di lesioni muscolari che non sono indifferenti. Quindi tantissime sono i rischi, perché o ci lasci un'articolazione o ci lasci un muscolo. Quindi questo deve fare veramente riflettere i nostri dirigenti di tutti i livelli, nazionali e internazionali. Cercare di promuovere delle cose logiche che si possono fare. Io proposi già 2 anni fa, sia l'UEFA che in Italia devono farlo, però principalmente le squadre super professionistiche con i giocatori che giocano tanto, una possibilità di arrivare anche a 5 sostituzioni, con 2 nell'intervallo, di modo che non vai a incidere sulla lungaggine dei tempi di cambio. Sì. Però devi dare agli allenatori e ai giocatori la possibilità, se tu vedi un giocatore stanco, come mi ha detto lei del basket, di sostituirlo. Assolutamente, io ho una curiosità finale, ma prima c'è il traffico che è importante, giusto? Un minuto, professore, un minuto. Poi parliamo del mio, no, non del mio, quello è disperato, traffico. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Ibrido Toyota, la scelta inevitabile per il tuo business. Vi presenta. Tutti convocati. Allora, abbiamo un'ultima domanda di Pierluigi Pardo al professor Volpi. Io ho una curiosità finale, proprio visto che abbiamo posto l'accento sull'elemento della stanchezza. Gli infortuni traumatici sono in qualche modo, non dico prevedibili, ma cioè un calciatore lo sente, lo avverte, ci sono dei momenti in cui è più predisposto a un infortunio di natura traumatica, oppure alla fine invece è comunque sempre un episodio appunto traumatico e quindi episodico? No, ci sono dei traumi che sono assolutamente imprevedibili. Pensate a un giocatore che entra da dietro e ti può ledere qualsiasi tipo di struttura dell'arto, e quello è imprevedibile, puoi star bene e star male. Quindi c'è un contatto, quando c'è un trauma da contatto diretto forte, quello può succedere di tutto. Però la maggior parte di questi infortuni si verificano, il 66%, cioè 2 su 3, senza contatto, perché il calcio prevede una serie di infortuni molto importanti senza contatto, e questi sono quasi tutti legati alla non coordinazione, ai terreni, alla stanchezza, al fatto che tu non riesci col tuo cervello a mettere l'articolazione come il servofreno della macchina in sicurezza, e quindi vai in distorsione. Questo dipende molto dal sopimento, cioè proprio dall'affaticamento dei circuiti neuromuscolari. Grazie prof, chiarissimo, grazie, grazie mille, grazie a voi, grazie. E complimenti per la vostra trasmissione. Grazie professor, grazie. No, Volpi. Pensavo complimenti per i nostri crociati, che per i nostri sono... crociati. Ma tu come sei messo a crociati? No, io non mai giocavo a basket, ma ero una pippa. Ma a calcio? Posso farti giocare? Ma a calcio giocavo a calcetto, ma adesso tutte le volte che gioco mi faccio male. Una cosa... L'anno scorso sulla spiaggia di sera, poi a Gaeta, una scena surreale, veramente, un fisico... Io volevo fare 2 chiacchiere, ma giusto 2. Faccio perché... schifo. No, non buttarti. No, sì, sì, faccio schifo, mi ricordo con loro nome. Ma non è vero, io ti voglio vedere con la magliettona arancione. Quella della partita del cuore. C'è Ricci? C'è Filippo Maria Ricci, a cui volevo fare una domanda molto flat, molto basica. Ciao Filippo. Buon pomeriggio. Il Reale è in crisi? Sì, 3-1 sì, con il Tottenham dopo la sconfitta col Girona. Magari sì. Ma si setta sulla Champions League, ma neanche quello. Finora era andata bene in Champions League, ora neanche più quello. Vabbè, Ronaldo è interessante, ha fatto 1 gol in 6 partite in Liga e 6 gol in 4 in Champions, no? Quindi questo poteva in qualche modo far pensare che la Champions fosse un'altra cosa. Sono un po' corti, si sapeva, ieri sera Ronaldo l'ha detto, dice: questi in panchina hanno perso 3 elementi come Pepe, James Rodriguez e Morata. Ieri sera avevano 7 ragazzini, età media 20.8 come anni, e perché ci sono gli infortuni di Carvajal, di Bale, di Keylor Navas e di Kovacic, no? Quindi la rosa è ancora buona, però con un po' di sfiga gli vanno via i giocatori e non hanno più il ricambio che avevano l'anno scorso, per cui situazione diciamo di difficoltà, alla quale io aggiungerei un minimo la scarsa lettura da parte di Zidane. Le 2 partite che hai citato tu, il secondo tempo ha schierato una difesa a 3 che secondo me che non funziona, ha abbassato Casemiro, a Girona addirittura ha tolto i 2 terzini. Male Casemiro ieri, eh? Non funziona, in male. Più, ecco, tanto Ronaldo come Zidane ieri sera hanno detto: non stiamo tutti allo stesso livello, no? Ci sono giocatori che non sono allo stesso livello di forma, E questo ovviamente finisce per pagarlo. A proposito di liquidità, Pardo, del calcio, non beh, ieri io l'ho commentato la diretta Madrid, premium sei mesi fa era una roba terrificante e adesso la squadra di il Tottenham sembrava la Roma del contro il Chelsea della sera prima, nel senso proprio della capacità di essere cinica, di colpire contro una difesa che aveva grandi problemi. Poi ha detto un po' sfiga, secondo me, Real Madrid. Il primo gol è fuori gioco, ci sono state un paio di situazioni addirittura comiche. Quella fasciolata incredibile con Sergio Ramos che tira sulla gamba di Cristiano Ronaldo. Insomma, non gli ha detto bene, però è chiaro che la squadra è un po' corta, su questo non c'è dubbio, in questo momento. Anche però, il Barça non benissimo, comunque, peraltro 0-0 con l'Olympiacos. Il Barça meglio. No, ma l'Atletico Madrid, ragazzi, parliamo l'Atletico Madrid va malissimo. Meno male. Adesso ci arriviamo, no? Prima parliamo del Barça. Esatto. No, prima no, il Barça io ti dico non lo vedo male. Adesso ha perso due pedine, però diciamo tra titolari o poco titolari come Sergi Roberto e André Gomes. E no, io il Barça lo vedo bene perché Valverde ha fatto un grande lavoro. Il Barça ha un problema che Suarez non segna più e questo veramente anche lì se lo dicevamo non so sei mesi fa, un anno fa, nessuno ci avrebbe creduto. Tornerà a segnare. Abbiamo un minuto per Atletico Madrid, Phil. Atletico Madrid, guarda, hanno sbagliato tutti i loro acquisti, poi adesso gliel'hanno anche tolti perché hanno il mercato chiuso, quindi non li possono fare, e di 5 attaccanti c'è Griezmann che deve fare tutto lui e si è completamente esaurito, gli altri 4 non fanno un attaccante. E il passaggio al Wanda Metropolitano ovviamente gli ha tolto tutto l'ebollizione del Calderon. E vedo, non sanno più difendere le partite, prendono gol di testa al 70%, per cui sono crollati i pilastri del ciolismo. Vediamo se li rimetteranno in piedi. Beh, magari dopo la Roma, parte questo tutto bene. Dopo la Roma, il Wanda è vicino all'aeroporto, no? Sì, abbastanza vicino all'aeroporto, bellissimo stadio, però chiaro, un pochino più freddo, più grande, e per cui no, adesso devono vincere le due partite e sperare pure che il Karabakh riesca a fermare o la Roma e il Chelsea, sembra assai complicato, e vediamo come va a finire. Sì, meglio per noi. Cosa può succedere di peggio, diceva il professor Frankenstein? Potrebbe sempre piovere. Piovere, sì, oggi a Milano mi sa che tra Madrid. Un po' ci tocca. Ciao Filippo. Ciao Phil. Ciao ragazzi. Ciao. Vediamo qua. Quando torna a trovarmi? Mañana direttamente. Adesso faccio 4 giorni milanesi di grande relax. Voglio dormire un po'. Ti vedo un po' provato, fratello. De Luca, tu vuoi dormire? Anche De Luca. Che stanca. Lo salutiamo. Il nostro autore. De Luca me lo porto a Napoli Milan al mio fianco. Sì, me lo porto. Andate in giro, lasciatemi sempre qua. Bravo. E vabbè, ho capito. Io con Ferronato. Lo porto anche a cena. Andiamo a cena, De Luca, a Napoli. Ciao, guys. A domani. Una serie, E casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti!